La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino alle 16.30, primi 27 secondi in diretta da Milano. Vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto, in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it e il numero di telefono per chiamare 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. In particolare mi rivolgo in questa puntata agli ascoltatori romani, ma la questione riguarda tutti, anche se la vicenda è quella romana. Qual è la vicenda romana? Quella, ve lo ricordate probabilmente, che a Capodanno 2015, quindi nella notte tra il 31 dicembre, fine 2014, inizio 2015, vide una maxi astensione di massa dei dipendenti comunali. Mancarono 767 vigili urbani di Roma assenti dal servizio quella notte, l'83%. Ci furono anche astensioni elevatissime nel personale dell'ATAC, su 150 macchinisti diedero la disponibilità a operare la notte di Capodanno solo in 7, ma la cosa clamorosa fu quella dell'83% dei vigili urbani a mancare dal servizio. Ricordiamo come il telegiornale l'indomani diede notizia di questa maxi astensione di massa. Roma, 83% dei vigili urbani assente per malattia a Capodanno. Marino, verifiche su chi ha inventato scuse. Renzi, mai più episodi così, perciò cambieremo la pubblica amministrazione. Madia al TG1, sanzioni contro i responsabili. Ecco, la reazione della politica fu immediata, la reazione dei media fu immediata. Io stesso ho scritto sul Messaggero quella volta e in tutto il prosieguo della vicenda nei mesi successivi. Il numero di coloro che si videro disponibili quella notte a lavorare dei vigili era in larga misura inferiore a quello che avrebbe dovuto essere. Alcuni di quelli che si resero disponibili si sottrassero comunque alla chiamata. Numeri infiniti di applicazioni richieste quella notte della legge 104 per stare vicino a parenti malati. Chi dichiarò invece di dover fare donazioni del sangue. Insomma, la vastissima panoplia a cui si ricorre in maniera impropria a ciò che consentono le norme vigenti per astenersi dal lavoro. Di fatto, però, quella massiccia astensione coincideva con un momento molto duro di confronto contro di alcuni sindacati, non la CGIL, e poi alcuni sindacati piccole sigle che hanno iscritti tra i lavoratori del Campidoglio e tra i vigili urbani, e sindacati appunto anche dei vigili urbani, e anche però CISL e UIL, che erano contrari alle norme sulla rotazione che il comandante del corpo, che non piaceva ai vigili urbani perché esterno, un poliziotto, Raffaele Clemente, aveva subito dopo la sua nomina immediatamente proposto per un radicale efficientamento dei servizi dei vigili urbani. E quindi gli estremi delle comunicazioni di alcuni di questi sindacati, eccetera, eccetera, fecero pensare e fecero scrivere a me, io l'ho scritto esplicitamente, che in realtà era un invito, sia pur non esplicitato attraverso forme di dichiarazione di sciopero, che alcuni sindacati facevano, pescando sul vastissimo malcontento dei vigili urbani di Roma, per dire: questa notte gli facciamo vedere noi e blocchiamo la città. Mm? Questo è lo sfondo della vicenda e la notizia che a me ha fatto cadere le braccia è la pronunzia del Tribunale, Sezione del Lavoro, quindi Giudice del Lavoro, il Tribunale di Roma, che è venuta, che è stata resa nota ieri e che fa piazza pulita della accusa che quel maxi astensionismo di massa dei 760 vigili urbani la notte di Capodanno 2015 era uno sciopero selvaggio. Non se ne parla neanche, dice il Giudice del Lavoro. Non era uno sciopero selvaggio, anzi, La sanzione, che poi fu comminata nel marzo dall'autorità garante dello sciopero, anch'essa convinta che si trattasse di questo, la sanzione va restituita, va annullata, deve restituire i soldi il garante. I sindacati gridano al ripristinato onore contro coloro, tra cui anch'io, no? Li avrebbe calunniati. Allora, a me questa storia fa girare molto la scatola, perché gli annunci della politica sul fatto che cambieremo le norme, gli accertamenti immediati, eccetera, eccetera, come si vede in questo paese, alla fine finiscono in una beffa, ma non in una beffa di quelle che fanno ridere come i film di Totò e Peppino, è una beffa amarissima, capite? Perché il significato che arriva, in primis ai tantissimi dipendenti di Roma, ai tantissimi vigili urbani che comunque non fanno queste cose, è che alla fine bisogna farle, visto che non paga nessuno. Primo. Secondo, purtroppo rivelano che tutti gli annunci del giorno dopo, nel nostro paese, questa è la mia personalissima opinione, vanno tarati, bisogna fare una tara immensa, perché a distanza di 20 mesi, ecco qual è la decisione del giudice del lavoro. Poiché però la vicenda è più complicata di questa, questo poi è una dei tronconi, perché poi ci sono altre indagini e così via, abbiamo con noi per parlarne due ospiti. Quindi abbiamo innanzitutto Simone Canettieri, che ne ha scritto oggi sul Messaggero, ma è uno dei cronisti del Messaggero della cronaca romana, che segue passo a passo tutte le vicende che riguardano il Campidoglio. Grazie Simone di essere con noi. Ciao Oscar e salve, buonasera a tutti gli ascoltatori. E abbiamo poi Stefano Esposito, che è stato assessore, non era l'assessore in carica nella Giunta Marina all'epoca, è stato successivamente assessore dei trasporti di Roma, e che ringrazio di essere con noi per farci capire qual è la sua opinione su questa vicenda, su come è stata trattata, come possa arrivare a questo esito, e che cosa davvero è cambiato o non è cambiato rispetto ad allora, quali sono le prospettive. Con lui poi parleremo anche un secondo di alcune altre vicende, perché nel frattempo, inciso, ieri al Senato l'approvazione bipartisan di un ordine del giorno che invita il governo a valutare l'ipotesi di commissariare l'ATAC, per così dire apre una strada per la più grande municipalizzata, la più scassata, trasporti in Italia, di un possibile iter che attraverso il commissariamento la porti poi tra le braccia delle Ferrovie dello Stato. Su questo o la Giunta di Roma guidata da Raggi si sveglia e fa capire che cosa è in grado di fare per ATAC, oppure, come evidente, il voto del Senato di ieri apre questa strada. Ma allora ricominciamo dalle inchieste, dalle indagini su quella notte e sul apprezzare meglio la pronuncia di questo giudice. Come si arriva alla pronuncia del giudice del lavoro Simone Canettieri? Si arriva semplicemente perché i sindacati hanno impugnato il decreto con il quale l'autorità per gli scioperi aveva comminato questa multa a quasi tutte le sigle sindacali, una multa che in totale arrivava a 100.000 euro, che era quindi diciamo suddivisa per una ventina, circa 20.000 euro a sigla. E il primo ad impugnare è stata la UIL, ieri è stata la volta della CISL, e il giudice del lavoro ha ribadito che la multa dell'autorità è stata una multa ingiusta, in quanto non ci sono gli estremi per lo sciopero selvaggio. Quindi non c'è stato, diciamo, una regia dietro a questa grandissima, insomma, e misteriosa epidemia che colpì 500. Quindi sarebbe stata, vigili, secondo il giudice del lavoro, una coincidenza casuale. Di sicuro aspetteremo di leggere, diciamo, entro 60 giorni le motivazioni della sentenza, però senza entrare troppo nel merito, la sentenza di ieri smonta, no, l'accusa di sciopero selvaggio che aveva fatto scassare la multa dell'autority. Questa è, come dicevi bene tu, è una beffa delle beffe, perché fondamentalmente questa vicenda, che poi dopo sono cambiate amministrazioni, c'è stato Marino, c'è stato Tronca, adesso c'è Virginia Raggi, si avvia a concludersi in burletta. Anche perché un'altra cosa che abbiamo oggi sottolineato proprio sulle pagine del Messaggero è che il Comune si è dimenticato, o forse lo ha fatto appositamente, o forse per non so quale fax con il corpaccione dei 23.000 dipendenti del Campidoglio, di costituirsi nel procedimento. Ma come non, quindi, si è costituito? Ma le reazioni dell'epoca, sia del sindaco che del comandante dei vigili urbani, furono durissime. Leggo il virgolettato del comandante dei vigili Raffaele Clemente all'indomani dell'assenza di Massa della notte di Capodanno. Leggo quello che dichiarò: l'atteggiamento di quanti hanno cercato di sabotare con una diserzione numerica assolutamente ingiustificata la festa di Capodanno sarà rigorosamente ricostruita. L'intera vicenda fuori dall'autorità giudiziaria di garanzia, ogni eventuale condotta illecita sarà sanzionata amministrativamente. Il comandante dei vigili urbani parla esplicitamente all'indomani di sabotaggio delle misure che erano state assunte, eppure il comune non si è costituito. No, il comune non si è costituito, quindi potrebbe essere un'omissione, potrebbe anche essere, visto che parallelamente poi è in corso anche una trattativa molto complicata per il salario accessorio dei dipendenti, e in questa fase alla giunta Raggi, che già insomma naviga tra i marosi della quotidianità, avere anche contro un esercito come quello dei dipendenti forse non è molto comodo. Fatto sta, queste sono le nostre supposizioni, che comunque il comune non si è costituito, e quindi al di là dell'atto formale è un atto politico, no? Certo. La mancanza, quindi la prima cosa che abbiamo sottolineato. La seconda cosa che abbiamo sottolineato è proprio quella che dicevi tu, che a fronte delle dichiarazioni di fuoco, Marino promise licenziamenti, pene severissime, come sempre accade, purtroppo alla fine sta per finire tutto così, tra lazzi e fischi, perché ovviamente sono usciti gran parte dei vigili dall'inchiesta, solo una cinquantina sono stati coinvolti in vari procedimenti a vario titolo, tra sanzioni amministrative, prossimi rinvii a giudizio, i medici che si occuparono anche di fare i certificati falsi su ordinazione, diciamo così, dei vigili, quindi senza delle effettive cure e comunque visite, adesso si trovano ovviamente anche loro quasi tutti a uscire dall'inchiesta, e alla fine vediamo che uno dei casi che fece, io me lo ricordo benissimo perché fece il giro d'Europa. Tenete conto, per avere un ordine di grandezza, che i medici finiti sotto indagine sono stati 100 complessivamente, perché 60 per aver sottoscritto dichiarazioni mediche senza aver neanche visto coloro a favore delle quali facevano le dichiarazioni, e 19 che si fecero sostituire da colleghi senza titolo, i quali diedero le proprie credenziali per l'accesso ai portali dell'INPS per sottoscrivere le false dichiarazioni. E anche questi 100 medici finiscono in cavalleria, Simone? Sì, probabilmente molti finiranno, allora, solo per circa una ventina, che poi se stanno comunque tutte le varie posizioni a vario titolo, stanno comunque uscendo tutte di scena, rischiano concretamente il rinvio a giudizio. Gli altri stanno uscendo, si sono accusati ovviamente di falso, e quindi piano piano comunque l'inchiesta si sta sempre più restringendo. Anche quella amministrativa del Campidoglio finora non ha prodotto nessun esito se non alcune multe, e diciamo ex legge Brunetta per intenderci, nessuno al momento rischia il licenziamento. Nessuno, quindi, è stato licenziato. Alla fine i vigili che organizzarono quella vicenda eccetera eccetera si ritroveranno comodamente il prossimo Capodanno, speriamo, a lavorare almeno questo. Vabbè, ricordiamo che nel frattempo il comandante è sempre Cantone o no? È Clemente, no, o no? Non è più Clemente, adesso è Diego Porta, esatto, che diciamo è un vice che è stato scelto ad interim, e scade il 31 di ottobre, fa parte di quel risico di nomine che la Raggi dovrà portare a termine entro il 31 ottobre. Quindi anche lì sarà, diciamo, interessante capire come si porrà nei confronti di questa macro struttura. Perché parliamoci chiaro, i vigili urbani non gradiscono comandanti del corpo che vengono da fuori, questo è il punto vero. Adesso io vado per le spicce, però di questo si tratta, perché i sindacati interni questo dicono. All'indomani, il primo di gennaio 2015, fu uno dei sindacati, l'OSPOL, che dichiarò che la percentuale dell'83% di assenteismo quella notte era fisiologica, non c'era niente di cui stupirsi. Io l'ho invitato in trasmissione e me lo ribadirono. Allora, evidentemente però la pronuncia del giudice dà ragione ai sindacati che dicono l'83% in meno a Capodanno? E che volete? E di che vi stupite? Ma cosa dici, buffone d'un Giannino? Ma che cazzo ne sai tu? Ma perché ci rompete le scatole voi giornalisti? Ma perché credete di parlare a nome dei cittadini quando il giudice darà ragione a noi? Ecco, allora, io mi alzo la voce perché queste cose testimoniano che c'è una distanza incolmabile tra quello di cui prendendo sul serio le novità annunciate dai politici e le riforme, viene annunciato, e quello che continua a essere la vita ordinamentale del nostro cavolo di paese è la capitale, l'esempio di quello che capita lì. Vale per tutta la PA. Non stupitevi poi che ogni giorno, tre volte a settimana in media, questa è la media che controlliamo a Radio 24, tre volte a settimana in comuni o in ASL o in pezzi di amministrazione pubblica continuino a essere decine e decine di dipendenti pubblici che fanno assenteismo. Perché la pronunzia del giudice di Roma, che io rispetto, che spero non mi quereli, vedremo le sue motivazioni, a loro però intanto arriva come un segnale: non cambiare abitudini. Insistere. Ai dirigenti preposti dall'alto al controllo dei comportamenti e a metriche anche di produttività, visto che a Roma c'è un problema enorme di salario di produttività che arriva fino al 40-50% di quello ordinario spalmato a tutti, che non è fatto su metriche di produttività vere, motivo per il quale il MEF rivuole 340 milioni dal comune, il comune non sa dove prenderli, vedremo anche qua il bilancio del comune. Ma il segnale che arriva a questi dirigenti, e io dovrei mettermi a fare il Torquemada se poi il giudice del lavoro dice che la sanzione dell'autorità garante dello sciopero deve essere restituita? Allora, io sarò uno un po' che si scalda, però considero queste robe, questi segnali, gravissimi. Anch'io attenderò la motivazione, ve ne darò conto, cari ascoltatori, ma è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Questo è il segnale che si diffonde. Esiti paradossali di vicende che dovrebbero essere in paesi civili intollerabili. Oh, allora, intanto io ringrazio Simone Canettieri, un minuto di pausa per le informazioni sul traffico e poi sentiamo che cosa ci dice su questo un politico, Stefano Esposito, che è stato poi successivamente anche lui con la responsabilità dell'assessorato al traffico. Non ora, ovviamente, non fa parte della giunta Raggi. A tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta per spiegarvi e commentare la decisione del giudice del lavoro di Roma, secondo la quale il capodanno 2015, 767 vigili, 83% che si astennero quella notte, non sono uno sciopero selvaggio. La multa comminata dall'autorità garante per lo sciopero ad alcuni sindacati va restituita e nessuno dei dipendenti pubblici è andato incontro a licenziamento. Il più dei 100 medici finiti sotto indagine dalla procura esce dalle indagini. E allora la domanda, Stefano Esposito, grazie di essere con noi, ovviamente glielo ribadisco, questa vicenda, lei da politico che ha avuto la responsabilità molto pesante per mesi di avere successivamente la responsabilità del assessorato dei trasporti a Roma, come la giudica? Ma avete detto, usando anche terminologie colorite che avrei utilizzato anch'io, quasi tutto. Purtroppo noi siamo in uno strano paese nel quale la dinamica come quelle che sono avvenute a Roma vengono poi derubricate a situazioni naturali. Io sono abituato ad avere un grandissimo rispetto per le sentenze. Per la verità, questo mio granitico convincimento si ferma un pochino sulla soglia dei giudici del lavoro, perché non è la prima volta che situazioni anche palesi, perché riuscire a dire che l'83% dei vigili che si sono astenuti dal lavoro e lo hanno fatto sulla base di quello che lei diceva, Giannino, di una ritorsione nei confronti dell'amministrazione Marino, che stava mettendo le mani, diciamo, in quel ginepraio che è fatto di consociazione, clientela, interessi, inamovibilità, naturalmente producono quale effetto? Quello di trasmettere al paese l'idea che tutto è ammesso, tutto è concesso. E guardi, per la verità il governo Renzi è intervenuto con questo decreto Madia, che alcune di quelle storture le corregge. Per esempio corregge la stortura dell'immediata sospensione. Oggi se vieni pescato in flagranza vieni sospeso, però non risolve il problema del fatto che esiste, ed è un elemento costituzionale, la possibilità per chi anche pescato in flagranza si possa rivolgere al giudice del lavoro. Lì abbiamo un ventre molle, lo dico, diciamo, sul piano politico, perché molto molto spesso i giudici del lavoro tendono a derubricare questi fatti. Si potrebbero fare un lungo elenco di esempi. Perché l'opinione pubblica è giustamente infastidita è incazzata. Ritiene che la responsabilità sia della politica. La politica in questo caso è intervenuta con un decreto che diciamo mette dei paletti molto più rigidi, ma non può togliere la competenza ai giudici del lavoro. Lì c'è un tema che riguarda anche la magistratura, che dovrebbe su questo diciamo terreno guardarsi anche un po' all'interno. Io sono convinto, lo ero allora, anche se non ero assessore, poi sono entrato nell'amministrazione a occuparmi di trasporti e ho incontrato sulla mia strada diciamo clientela e consociazione all'interno dell'ATAC, che naturalmente il sindacato a Roma, nella cosa pubblica, in particolare nel Campidoglio, non svolge la funzione di tutela dei lavoratori, ma prima di tutto cogestisce e vuole decidere tutto sui vigili. Perché non volevano Clemente? Lo spiego io perché non volevano Clemente. Clemente è un ottimo poliziotto che si è occupato in tempi in cui non se ne parlava di terrorismo islamico. Come no? Che decide di accettare la proposta di Ignazio Merino di andare a fare il comandante dei vigili e quindi porta all'interno del corpo dei vigili una dinamica banale, cioè quella per cui si ruota nei diversi municipi, si ruota sui diversi settori di impiego, e questa cosa apre il cielo. L'abitudine, i rapporti, le relazioni, una mano lava l'altra, chiude un occhio. No, e naturalmente tutto questo ha creato la rivolta dei sindacati. Io adesso non mi ricordo quante sono le sigle sindacali che presiedono alla tutela dei vigili, no? dei diritti dei vigili, ma credo che siano una decina. Chiaro? E naturalmente c'è un fil rouge che unisce quei sindacati dei vigili, ai sindacati dell'AMA, ai sindacati dell'ATAC, ai sindacati che stanno all'EUR. È tutta una filiera che peraltro non è che Roma faccia tanto differenza da altre situazioni in giro per l'Italia, ma qui a Roma sono decuplicate se non centuplicate. Quindi naturalmente l'incazzatura è notevolissima, Giannino, perché il cittadino medio romano, che non ascolta magari la sua trasmissione, ritiene che la responsabilità di questa vicenda ricada interamente sulla classe politica, quando le posso dire con certezza che ciò che era possibile fare in termini di legislazione per chiudere gli spazi ai furbetti è stato fatto, ma lo spazio del legittimo, costituzionalmente garantito, del rivolgersi alla magistratura non lo possiamo chiudere, e siamo sottoposti ad una decisione che non possiamo possiamo commentare, ma che non possiamo cambiare. Quindi su questo si apre, credo, il tema della valutazione anche diciamo di un confronto con la magistratura. Adesso i giudici del lavoro naturalmente sono una categoria molto settoriale. Io sono uno, mi ritengo di sinistra, cerco di praticare la cultura di sinistra, ma la cultura di sinistra non è lassismo. No, naturalmente, non è il dire di fronte all'83% che mancano è un caso. E non lo dirò mai, non me lo sentirete dire mai, e continuerò a pensare, a prescindere dalla sentenza, che rispetto, che quell'83% di assenze dal lavoro fu uno sciopero politico fatto contro l'amministrazione Marino, contro il comandante, per impedire che facesse quell'operazione di rotazione. E le posso dire di più, io ritengo che nulla cambierà nei prossimi mesi. Perché questa è un'opinione politica, vedremo, però intanto hanno già vinto, perché Clemente non c'è già più, quindi questo è il punto vero, purtroppo tragico per me. Io scrivo tutto quello che ha detto il posto. Cari ascoltatori, c'è una valanga di commenti, non sto rimpiangendo Marino, parlando male di chi c'è oggi, no, questo è un problema che ha a che vedere con una sentenza, quindi abbiamo tentato di spiegarlo, ma io ringrazio soprattutto i tantissimi dipendenti pubblici che hanno scritto dicendo di essere indignati anche loro. C'è una parte fondamentale della pubblica amministrazione che non condivide questi atteggiamenti, quindi io dico è proprio per loro che tentiamo di spiegare alla gente. Non è affatto vero che sono tutti uguali, molti dicono se ha lavorato solo il 20%, l'80% buttiamoli via. Questi ragionamenti ipersemplicisti non possiamo farli così. Comunque grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi, controllate sulla 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Minetti, Antino 2.